città spropositata. 360 gradi di luci e rumori. Concentrate oltre nulla. Sull'orizzonte una fanghiglia ridotta ai minimi termini. La morte aleggiava nell'aria. Di persone, di sarcasmo e di morte. La sfida e la crudezza della lotta. Lotta alla morte. Ineluttabilità e improbabilità di legami impossibili. Sangue, carne.